A bordo campo di Dario Ricci. Ci aspettavamo tutti i trionfi della nazionale maschile nell'ultimo Sei Nazioni di rugby. Beh, c'è stata la vittoria sulla Scozia, ma anche qualche sconfitta che fa riflettere. Quello che davvero in pochi si aspettavano è che la sorpresa più grossa sarebbe arrivata da Bridgend, dal campo che ha ospitato la sfida tra Galles e Italia. Sì, ma tra Galles e Italia donne, perché da 4 anni c'è un Sei Nazioni femminile, protagoniste anche le nostre azzurre, e a Bridgend il 21 marzo del 2010, ultima giornata del Sei Nazioni 2010, è arrivata la prima vittoria in trasferta della nazionale di rugby femminile, prima in assoluto in trasferta di una nazionale di rugby in Galles. Paola Zangirolami, capitano dell'Italia in rosa del rugby, direi una bella soddisfazione, eh? Sì, veramente una grandissima soddisfazione. E abbiamo iniziato abbastanza bene quest'anno, poi diciamo che abbiamo avuto delle partite abbastanza difficili, ad esempio contro l'Inghilterra e la Francia, e poi alla fine c'è stato il grande finale, insomma. Eh sì, anche un po' modesta Paola, perché c'era stato anche un bel pareggio con la Scozia, un 6-6, che pure quello fa curriculum, e poi è arrivata questa vittoria 19-15 a Bridgend, dopo un primo tempo che aveva visto sotto anche 12-0. Sì. Dove eravate andate in quel primo tempo? Ah, niente, avevamo perso la testa. No, il primo tempo diciamo che abbiamo attaccato abbastanza, siamo rimasti abbastanza nella loro metà campo, e poi in due errori nostri ci hanno fatto appunto due mete trasformate tutte e due. Che poi gliele avete rese con gli interessi nella ripresa. Certo. Non è il caso di mollare il colpo, no? No, assolutamente. Allora, nessuno si stupisca del fatto che stiamo parlando, Paola, di rugby al femminile, perché da 4 anni c'è il Sei Nazioni, che è la punta di un iceberg, perché il movimento in gonnella del nostro rugby sta crescendo, come ci conferma anche Maria Cristina Tonna, team manager dell'Italia del rugby e responsabile del settore femminile della Federrugby. Benvenuta Maria Cristina. Buonasera a tutti. Allora, numeri che stanno crescendo, quelli del nostro movimento, dietro a queste ragazze che si fanno valere sui campi d'Europa, Beh, certo, come per la nazionale maschile, anche per noi vale lo stesso discorso, nel senso che la nazionale è la punta di diamante di un movimento. Movimento poi che negli ultimi anni sta crescendo e i numeri lo dimostrano. Per cui siamo passate da 1000 atlete di 4 anni fa alle 4000 e passa di questa ultima stagione, e speriamo insomma che adesso di avere un'ulteriore spinta dopo la bellissima vittoria contro il Galles. Eh sì, perché insomma britannici e francesi devono cominciare a rispettarci non solo in campo maschile ma soprattutto in campo femminile. Tra l'altro, Paola Zangirolami, so che tu hai giocato anche in Inghilterra, nella terra dei maestri, a Richmond, vero? Sì, la scorsa stagione ho fatto una stagione appunto a Londra, e veramente esperienza bellissima sotto il punto di vista non solo di vita ma anche proprio rugbistico, insomma. Tra l'altro sì, esperienza di vita, perché tanto per capirci non è che si va lì a far la vita delle star del rugby. So che no, facevi la babysitter per pagarti l'affitto. Sì, ebbene sì, faccio la babysitter. Quindi insomma, placcaggio e biberon, ecco. Sì. Maria Cristina, credo insomma una situazione comune in una nazionale in cui ci saranno tanti tanti impegni per portare in meta questa palla ovale al femminile. Ma nella maniera più assoluta, tant'è che io ricordo sempre che queste ragazze non sono neanche professioniste, per cui veramente questa vittoria vale probabilmente 10 volte tanto una vittoria di una squadra professionista. Loro lasciano il lavoro, per l'appunto come dicevate, lasciano la famiglia piuttosto che i bambini per venire a indossare la maglietta dell'Italia e le scarpette coi tacchetti. Veramente un applauso ancora più forte per tutte le ragazze che giocano a rugby. Ah, quello poco ma sicuro. Invece dal punto di vista tecnico ti chiedo, Maria Cristina, quali sono le principali peculiarità del rugby al femminile? Ma guarda, io diciamo che ti riporto quelle che sono sia le mie esperienze in quanto ho allenato sia squadre femminili che maschili, ma soprattutto quelle che sono le impressioni dei tecnici uomini. Le donne sembrano essere molto più facili all'apprendimento, proprio perché anche tra le altre cose devono anche dimostrare sempre qualcosa, il fatto di dover appunto dimostrare di poter giocare al rugby piuttosto che a un altro gioco. Poi dopo ovviamente ci mettono magari meno forza, ma quello è un aspetto fisiologico che lo prendiamo appunto in quanto tale, però le nostre ragazze giocano comunque un rugby di alto livello e molto molto piacevole da vedere. Capitano Zangirolami, aiutaci un po' a capire invece qual è il quadro a livello europeo, tu che hai giocato anche all'estero, il movimento, ecco, effettivamente queste britanniche sono sulla scia di una grande tradizione ancora molto distanti, i risultati più recenti, lo stiamo dicendo, confermerebbero che queste distanze si stanno riducendo. Sì, sicuramente si stanno riducendo, però loro hanno dalla loro parte una grande tradizione, insomma. E poi sicuramente hanno molto più movimento, quindi moltissime più tesserate, e in campo nazionale questo conta moltissimo, insomma, hanno molta più scelta e tutto quanto, insomma. Però noi piano piano, insomma, le stiamo raggiungendo. Ma sì, anche perché ti confesso, mi è capitato di vedere Scozia e Italia maschile dalle tribune del Flaminio, e le tifose scozzesi facevano più impressione dei tifosi uomini, quindi insomma. Sì. Proprio strutturalmente, fisicamente sono superiori a noi, insomma, però noi compensiamo da altre parti, insomma. Insomma, c'è anche la fantasia latina. Vabbè, certo. So che tra l'altro, Maria Cristina, sullo sfondo della crescita di questo movimento c'è anche un sogno a 5 cerchi, no? Un sogno olimpico che adesso può diventare realtà anche se nel rugby a 7. Sì, nella maniera più assoluta, quello è il nostro obiettivo per ora, diciamo, a lunga scadenza, anche se già sono partiti programmi specifici e poi verranno messi sopra proprio a breve. E chiaramente il fatto di arrivare alle Olimpiadi penso che sia il coronamento del sogno di qualsiasi atleta, ma anche di ogni federazione, il fatto di poter mandare la propria squadra, in questo caso voglio sperare sia la squadra maschile che quella femminile, di poter andare insieme magari in Brasile appunto a rappresentare l'Italia e la nostra federazione. Eh sì, l'obiettivo è Rio de Janeiro 2016, perché sarà la sede delle Olimpiadi del 2016, e il rugby, lo ricordiamo, è stato inserito nella sua versione A7 nel programma olimpico. Paola, c'è qualcosa che invece invidiate ai vostri colleghi della squadra maschile, che al di là poi dei risultati sono comunque al centro dell'attenzione mediatica? Diciamo che il rugby maschile sa vendere bene la propria immagine, almeno in Italia, anche al di là dei risultati, eh? Sì, forse un po' quello magari, però piano piano, insomma, anche noi ci stiamo facendo conoscere, insomma, attraverso i risultati. E poi per il resto, vabbè, logicamente tutti quanti aspirano ad una vita da professionisti, insomma, anch'io farei di tutto per allenarmi tutto il giorno e non far altro, però insomma non mi dispiace neanche la vita che sto facendo, insomma, bellissime soddisfazioni lo stesso, sinceramente. Ecco, la tua giornata tipo? La mia giornata tipo, beh, durante 6 Nazioni mi alleno e basta. Invece negli altri mesi lavoro nelle scuole con il progetto Più Sport a Scuola, quindi vado nelle varie scuole ad insegnare rugby e poi mi alleno in palestra e alla sera in campo, tutti i giorni tranne il sabato pausa. I tuoi hobby al di là della palla ovale, Paola? Beh, sicuramente sono viaggiare, poi vabbè, mi piace un sacco la musica, leggere, insomma gli hobby che hanno tutte le ragazze, insomma, diciamo. Maria Cristina Tonna, abbiamo chiuso appunto questo 6 Nazioni con questo ottimo risultato, straordinario risultato, e soprattutto dimostrando alle nostre avversarie che ormai siamo lì davvero vicine. Dal punto di vista organizzativo e tecnico, cosa ancora ci manca per essere stabilmente nel gota del rugby femminile mondiale? Ma guarda, intanto volevo dire una cosa che mi ha fatto molto piacere di questi giorni, a parte ovviamente i complimenti di tanti rugbisti, ma soprattutto delle scozzesi e della rappresentante del rugby femminile nell'IRB, per cui significa un ulteriore passo in avanti anche dal punto di vista formale, passami il termine. Poi io penso che non ci manca soltanto, non manca nulla se non un po' più di numeri, come diceva prima Paola, un pochino più di scelta. Però sinceramente penso che questa squadra ha dato tanto ed era giusto che con questa squadra riuscissimo a cogliere veramente questo prezioso contributo appunto al movimento e poi questa vittoria che ha lasciato qualcosa, un segno nella storia. Maria Cristina, per chiudere, diamo un piccolo smacco ai vostri colleghi maschi che a Cardiff le hanno prese di santa ragione. Dategli un consiglio su come si fa a battere il Galles in trasferta. Ma non mi permetterei mai. L'unica cosa, magari che dopo che hanno finito la partita potevano venire a vederla, così forse qualcosa potevano prendere. Ma no, noi siamo tutti una grande famiglia assolutamente e lavoriamo tutti in un'unica direzione. E insomma, intanto gliel'abbiamo tirate le orecchie a questi ragazzi. La prossima volta, altro che il terzo tempo, venite a vedere le ragazze della nazionale femminile di rugby. Grazie a Maria Cristina Tonna, manager dell'Italia e responsabile del settore femminile della Federrugby, e grazie al capitano delle Azzurre, Paola Zangirolami, per essere state insieme a noi a bordo campo. Grazie a voi. Grazie. Beh, davvero in gamba le ragazze della nostra nazionale azzurra di rugby. Ora una breve pausa, poi torniamo insieme per parlare di un altro Made in Italy di successo. Parleremo della vela fantascientifica ipertecnologica che ha garantito agli americani di Oracle il successo nell'ultima Coppa America, una vela appunto Made in Italy. Torniamo a parlare di America's Cup oggi a bordo campo perché? Beh, perché il successo di B&W Oracle nelle acque di Valencia che ha riportato in America l'America's Cup, trionfando nella 33esima edizione contro gli svizzeri detentori fino a quel momento del trofeo di Alinghi, ha un'anima e soprattutto una vela italiana. E la straordinaria vela di 68 metri, la cosiddetta vela rigida di B&W Oracle che ha stupito gli svizzeri e il mondo, ha infatti la firma di Mario Caponnetto, ingegnere navale genovese, con numerosi altri disegni importanti alle spalle, su tutti, ricordo quelli del Moro di Venezia e quella anche di Luna Rossa. Allora, ingegner Caponnetto, direi che ci ha voluto un po' per pensarla quella vela, ma risultati discreti, no? Se mi è concessa la battuta. Sì, buongiorno. Sì, beh, sicuramente è stata un'impresa abbastanza ardua, che però sicuramente ha dato i risultati sperati, se non di più. Entriamo subito nell'aspetto tecnico. Come è fatta, come è costituita questa vela che ci ha sorpreso tutti? Quando abbiamo visto che questi 68 metri, difficilmente riuscivamo ad immaginarne noi che la vedevamo per la prima volta le prestazioni in acqua, poi è stata una sorpresa, una vera e propria rivelazione. Beh, sì, diciamo che un'ala, perché possiamo definire sicuramente un'ala questa vela, un'ala così simile a questa esiste già in campo navale, nel senso che ci sono già state esperienze simili di ale utilizzate su catamarani a regata, però di dimensioni molto più piccole. Quello che fa, diciamo, impressione, ci ha fatto impressione anche noi quando abbiamo deciso di farla, sono sicuramente le dimensioni. È fondamentalmente composta, beh, come una vera ala di aereo, dove c'è una parte frontale, un corpo principale che è la struttura portante e una serie di flap posteriori che permettono di regolare e ottimizzare la forma di quest'ala in funzione della direzione e dell'intensità del vento. Proprio questo legame col mondo aeronautico è particolare e come nasce? Ecco, come siete riusciti a sintetizzare questi aspetti che hanno in comune la gestione e lo sfruttamento proprio del vento, no? Beh, diciamo che l'analogia fra ala ed aereo e vele c'è sempre stata, diciamo che la fisica è esattamente la stessa. E in particolare quello che possiamo fare adesso è anche utilizzare le metodologie di calcolo che sono state, diciamo, sviluppate nel settore aeronautico, possiamo utilizzarle ormai anche nel campo delle vele, delle barche. Tra l'altro, l'altra cosa, che mi ha colpito molto nello studiare, no, il vostro progetto, per quelle che sono state le sintesi giornalistiche, è il collegamento diretto che tra la vela c'era con l'equipaggio, no, con i velisti che erano chiamati poi a sfruttare e ottimizzare al meglio, l'interconnessione tra vela e vento di Valencia. Ce la vuole un po' spiegare? Ma sì, diciamo così, diciamo che su questa ala abbiamo una serie di sensori che ci permettono di capire, ci permettevano di capire in ogni istante qual era, com'era il vento lungo tutta l'apertura alare della vela. E a monte avevamo fatto dei calcoli di fluidodinamica numerica che ci permettevano, ci hanno permesso di realizzare un database di forme ottimali di quest'ala in funzione delle diverse intensità e angoli del vento. Quindi in sostanza conoscendo, e questo database era installato a bordo della barca, quindi il velista leggeva il vento reale e andava a confrontare la forma, la geometria dell'ala con quella ottima calcolata al calcolatore e cercava di adattarla per massimizzare le prestazioni della barca. Non c'è il rischio così di arrivare prima o poi a un velista automatizzato, perché che immagino che poi le letture di questi dati e gli stessi flap saranno, e i sensori saranno sempre infinitesimamente più precisi, e allora a quel punto basterà schiacciare un pulsante, o mi sbaglio? Temo che il rischio ci sia, chiaramente sta un attimino agli organizzatori di queste regate porre certi limiti. In questo caso noi non avevamo nessuna regola che ci impedisse di farlo e abbiamo cercato di utilizzare questa tecnologia al massimo. L'altra cosa sorprendente è questa che vi racconto sinteticamente. L'uomo comune pensa, oddio, per realizzare questa vela di 68 metri chissà che lavoroni nella galleria del vento, perché noi ormai siamo abituati al fatto che si studino questi attriti, questi fenomeni nella famigerata galleria del vento. So invece che questa vela, se non sbaglio, la galleria del vento proprio non l'ha mai vista, e perché? No, in effetti non l'ha mai vista per diversi motivi. Uno, perché è molto difficile, date le dimensioni della vela, fare dei modelli che ovviamente sono in scala ridotta da utilizzare in galleria del vento, che abbiano una precisione sufficiente. Ci sono troppe cose che non possono essere riportate in scala così piccola. Poi l'altra cosa è che ormai abbiamo dei modelli di fluidodinamica numerica che sono così precisi e veloci da far girare, che ci permettono di provare molte diverse soluzioni in tempi brevi. Mentre con la galleria del vento i tempi di misura, di realizzazione del modello sono molto più lunghi. Quindi alla fine abbiamo deciso di far tutto col calcolatore, chiaramente utilizzando calcolatori molto potenti. Quindi insomma, di fatto è un'ala che è nata esclusivamente al computer attraverso i calcoli, insomma ha preso poi forma per quelle che poi erano le risultanze di questi calcoli complessissimi, numerosissimi. Fa sensazione pensare che non ci sia stato un modello fisico da plasmare. Sì, ormai, ripeto, questi modelli li conosciamo così bene che sappiamo quando possiamo utilizzarli con una certa sicurezza. Chiaramente la sicurezza non è mai assoluta, quindi quando poi alla fine siamo dovuti andare in mare a provare questa vela c'era un po' di tensione, però abbiamo visto che i nostri modelli effettivamente davano i risultati che abbiamo visto in mare. Ero molto confidente in questo. È quello che ha fatto ad esempio un po' in Formula 1 la scuderia Virgin, che ha disegnato la sua vettura esclusivamente al computer, anche se in questo caso finora i risultati son diversi, ingegner Caponnetto. Sì, beh, adesso non sono un esperto di Formula 1, però sì, so che anche in Formula 1 quasi tutte le scuderie usano wind tunnel, cioè gallerie del vento, ma sempre di più modelli matematici. E penso che nel futuro, avendo visto l'evoluzione di questi modelli da 20 anni a questa parte, si va sempre più verso la sostituzione della prova sperimentale col calcolo numerico. Allora, in attesa poi degli incentivi alla rottamazione per le gallerie del vento, le chiedo, ingegner Caponnetto, visto proprio le sue esperienze, prima col Moro di Venezia, poi con Luna Rossa, ci aiuti un po' a capire come sta cambiando la tecnologia di queste sfide veliche d'eccellenza? Diciamo che ci sono due aspetti molto importanti. Uno sono i materiali, cioè le barche evolvono e si modificano in funzione dei materiali che si hanno a disposizione. In particolare la grande svolta negli ultimi anni è stato l'utilizzo di carbonio sia per quanto riguarda la costruzione delle carene che per le vele. Poi la grande differenza è, ripeto, a livello progettuale. Un tempo sì, c'era la vasca navale per provare le carene, però era uno strumento molto costoso, per cui spesso succedeva che l'architetto navale progettava la barca, diciamo, a sentimento, basandosi sulla sua esperienza, la costruiva e andava in mare e vedeva come andava. Adesso è possibile, diciamo, avere un approccio molto più scientifico e sempre di più qualunque barca, qualunque vela, prima di essere costruita viene provata al calcolatore. Quindi queste sono le due grandi differenze. Per il futuro cosa dobbiamo aspettarci? Già ci ha detto che di fatto le risorse tecnologiche permetterebbero quasi completamente di poter automatizzare l'imbarcazione. Vuol dire che l'unico freno per voi scienziati e studiosi saranno i regolamenti? Beh, sicuramente come è fatta una barca dipende molto dal regolamento. I regolamenti sono ancora fatti dagli uomini, quindi in qualche modo si può indirizzare il tipo di barca in base al regolamento. Poi ripeto, sta molto a chi fa questi regolamenti porre dei freni, perché non diventi, diciamo, si può arrivare all'assurdo di fare regate senza uomini a bordo. Questo chiaramente è una cosa che non vogliamo. Di fatto però la tecnologia già lo consentirebbe. Entro certi limiti sì, però vabbè, per quanto riguarda la condotta in regata sicuramente non ancora. Cioè la tattica di regata è qualcosa che è ancora talmente complessa, è più complessa di una partita a scacchi, quindi sicuramente l'aspetto umano di sensibilità, di intuizione ancora non può essere eguagliata da un calcolatore, per ora chiaramente. Beh, ingegner Caponnetto, tiriamo un sospiro di sollievo a questa sua ultima risposta e le chiedo per chiudere, invece dal punto di vista tecnologico, ci aiuti a vedere qualche anno in avanti quale sarà il prossimo passo, o meglio, qual è l'idea che è già sul suo tavolo, su cui già sta lavorando. Sicuramente le prestazioni delle barche saliranno e per farle salire chiaramente c'è bisogno di immaginare delle barche particolari con tipo multiscafi, cioè barche leggere con molta stabilità e quindi molta potenza, e però ripeto, non ho la sfera di cristallo, quindi è sempre una lenta evoluzione ed è difficile prevedere che cosa succederà. Staremo a vedere allora se davvero in un futuro quanto mai prossimo assisteremo a regate ipertecnologiche con protagoniste le sole barche senza i marinai. Staremo a vedere. Per A Bordo Campo di oggi intanto è tutto. Grazie a Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo i nostri appuntamenti. Ogni domenica alle 14.30 appunto il consueto appuntamento con le piccole grandi storie dello sport di A Bordo Campo, e poi ogni sabato alle 13.15 l'appuntamento con A Bordo Campo Sudafrica 2010 nel cuore del mondiale, per scandire la nostra marcia d'avvicinamento verso i prossimi mondiali di calcio di Sudafrica 2010. Vi ricordo anche che potete riascoltarci dal nostro sito internet, come tutte le trasmissioni di Radio 24, quindi l'indirizzo www.radio24.it, e scriverci alla mail a bordocampo@radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.